Il terzo orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista, presenta Api contro l'oscurità. Oggi parleremo di poesia e di lotta, o meglio, di lotta e di poetesse, o meglio ancora, poetesse in lotta contro l'oscurità. Cioè, donne armate che lanciano pendenti di spada contro il buio? Una specie di Don Quixote? No, non si può fare con te. Si vede che tu proprio non ce l'hai l'animo poetico. Noi che... sole, non sangue, ci scorre nelle vene. Chi è? Chi è? Marina Svietaeva. Bene. Male, in realtà. Ma facciamo finta che va bene. Noi che... sole, non sangue, ci scorre nelle vene. Noi che ci nutriamo di poesia. Noi che innalziamo il nostro spirito al suono del puro ritmo. Noi che trascendiamo, ci sublimiamo, ci metaforizziamo. Per ricreare noi stesse e il mondo. Oh, Nenzini, ti ho capito. Che ti sei innamorata, eh? Dillo che ti sei innamorata. Basta. Oggi parleremo di poetesse con il sole che scorre nelle vene e in lotta contro l'oscurità. Concentration. Empty your mind, let the rest of the world go by. Hold your breath, hold your breath. Close your eyes. Rocks and stones, broken bones, everything eventually comes crawling home in the night, in the night, in the night. Forgive me if I fall short of your mark, but there are things still buried in my heart box, heart box, heart box. Concentration, empty your mind, let the rest of the world go by. And when the tears fall from both my eyes, they fall from my right eye, because I love you. and they fall from my left eye, 'cause I cannot bear you. Rocks and stones, broken bones, everything eventually comes crawling home in the night, in the night. Tieni, leggi qua. Ecco chi era Marina Svetaeva. Marina Svetaeva nasce l'8 ottobre del 1892 in Russia e muore il 31 agosto del 1940, suicida. Marina è oggi considerata una delle più grandi poetesse del Novecento. Sono dovuti trascorrere diversi anni dalla morte perché ottenesse il riconoscimento dovuto. Era una donna molto consapevole del proprio valore artistico, ma finché visse si trovò a dover difendere coi denti il proprio lavoro, nell'indifferenza generale, incapace di vivere come una donna, l'unica vita che le era possibile era la poesia. Dio mi ha messo sola, in mezzo al vasto mondo. Uccello, non donna, vola dunque e canta. Alla mia povera fragilità guardi, senza sprecar parola. Tu sei di pietra, ma io canto. Tu sei un monumento, ma io volo. Io so che il più tenero omaggio all'occhio dell'eternità è nulla. Ma io sono un uccello e non incolparmi se una facile legge m'è imposta. Beh, non la legge anche in russo per cogliere più profondamente le impercettibili sfumature dell'animo poetico di Marina Svetaeva? Che animo poetico! Nel 1937 Marina Svetaeva scrive il racconto di Sonechka, ispirato dall'amata Sofia Holiday. Il loro incontro viene narrato così. Poi arrivò lei. Comparve in un giorno d'inverno in cui la Svetaeva stava leggendo la sua opera, Tormenta, nello studio di Vachtangov. Di fronte a me una ragazzina con due trecce nere, con due enormi occhi neri, le gote in fiamme. Di fronte a me un incendio, tutto brucia, brucia tutta. E lo sguardo, da quell'incendio, ammirazione statica e disperazione. Ho paura e amo. In realtà Sofia Sonechka, all'epoca attrice dello Studio 2 presso il Teatro d'Arte, ha solo 4 anni meno della Svetaeva, ma la bassa statura, gli occhi enormi e le trecce la fanno sembrare una 14enne. Era il 1919. Marina ha 27 anni, Sofia Sonechka ne ha 23, ma era già un'attrice famosa a Mosca. Non era la prima donna che Marina amava. Prima di lei, Sofia Parnok, un amore molto amaro. Ma quello che colpisce è che la loro amicizia, che dura solo qualche mese in tutto, lascia tracce di anni nell'animo di Marina. Sonesca sparirà all'improvviso, così come era apparsa. Lascia Mosca e si sposa. Marina dirà nel 1937: Sonesca mi ha lasciato per il suo destino di donna, solo per obbedienza alla sua vocazione di donna. E ancora: no, non è giusto, amica. Era semplicemente amore. Amore in forma femminile. In vita mia non ho mai amato nessuno quanto lei. Cercati meno esigenti amiche, più tenere in fatto di prodigi. Io so che Venere è un fatto di mani, artigiano, conosco il mio mestiere. Dal silenzio più solenne fino a sterminare l'anima, tutta la divina scala, da mio respiro a non respirare. 18 giugno 1922. Svetaeva ha vissuto la solitudine e la diversità dal mondo che la circondava in maniera molto intensa. Questa intensità non fa pensare anche a te alla grande... Alla grande? Ti devo dire tutto, tutto, tutto, tutto, tutto? Stiamo parlando di Emily Dickinson, la poeta per eccellenza, colei la cui solitudine fu il suo aggancio con il mondo. Che pensiero profondo! Sotto, sotto, scavi, scavi, zitta, zitta, a tirare fuori improvvisamente questa profondità. Comune mortale. È proprio vero che la poesia non è per tutte. Emily Dickinson è nata ad Amherst il 10 dicembre del 1830 ed è morta nel 1886 per una nefrite. Per farti capire chi era Emily, senti cosa disse una sua conoscente. Una mattina l'andai a trovare. Mi chiese se preferivo un bicchiere di vino o una rosa. Le risposi che avrei accettato la rosa. A quel punto uscì in giardino e ritornò con una rosa e me la diede. Guarda, domani, quasi quasi, mi sa che ti invito a cena e poi ti dico: Nanzini, vuoi il frittatone o una violetta? Voglio proprio vedere cosa mi risponde il tuo animo poetico. C'è che tu lo ammazzi sempre, il mio animo poetico. Io stavo dicendo una cosa importante. A lei io offrirei la mia rosa più preziosa. La cosa importante era questa? Emily, pensa, è vissuta sempre ad Amherst, concedendosi di rado brevi spostamenti. E gli ultimi 16 anni li ha trascorsi interamente nella sua stanza, ricevendo pochissime visite. Pensa che non è uscita neanche per il funerale dei genitori, eppure dentro quella stanza è riuscita a conoscere il mondo, l'amore, la passione, la meraviglia della natura. Dentro quella stanza è riuscita a viaggiare come nessuna. Un'altra pazza. Taci e odi. Vieni, piano, piano, paradiso. Labbra inesperte di te timidamente suggono i tuoi gelsomini, come l'ape stremata che giunge tardi al fiore, ronza intorno alla sua stanza, conta il nettare, entra e si perde tra i profumi. Il fiore, la rosa, il nettare, il profumo, i tuoi gelsomini, il fiore, l'ape. La conosco questa storia. Con chi è che si è chiusa nella sua stanza, Emily? Che spudorata! Era sola, Emily. Certo, è vero che ci sono alcune poesie come questa che... Ecco, si vocifera, insomma. Aveva un love affair con Susan Gilbert, la moglie di suo fratello. Didi, racconta tutto. Sei proprio morbosa, eh? Emily, nonostante il cercato esilio, ebbe molte amicizie e intrattenne intensi rapporti epistolari. Tra i rapporti più forti, indubbiamente, quelli con donne, alle quali scriverà lettere passionali e dedicherà poesie inequivocabili. Hai capito? Sotto sotto le api ronzavano. E come ronzavano? Sei scostumata. Dicevo che sicuramente la relazione con Susan, o come la chiamava lei, Sue, fu la più intensa ed anche la più dolorosa quando si allontanarono. Una passione che non lascia dubbi, un amore palese, testimoniato dalle lettere e dai molteplici biglietti che Emily inviava alla sua amata Sue. Tieni, leggi qui. Sue, perdonami, mia cara, per tutto quello che dico. Ho il cuore pieno di te, nessun altro che te, nei miei pensieri. Eppure, quando cerco di dirti qualcosa che va al di là del mondo, le parole mi sfuggono. Se tu fossi qui, e oh, se solo fossi qui, mia Sue, non avremmo affatto bisogno di parlare. Gli occhi sussurrerebbero per noi, e la tua mano, salda nella mia, non dovremmo ricorrere alle parole. Cerco di portarti più vicina. Caccio via le settimane fino a quando non sono completamente dissolte. E immagino che tu sei arrivata e io attraverso il sentiero nel verde per incontrarti, e il mio cuore corre talmente veloce che fatico a riportarlo indietro e a insegnargli a essere paziente. Fino a quando la cara Sue arriverà. Diventerò sempre più impaziente finché non arriverà quel dolce giorno, perché fino ad ora non ho avuto che rimpianto per te. Adesso inizio ad avere speranza di te. Che bella! Magari qualcuna mi scrivesse parole come queste. Qualcuna? Piccola comune mortale. Qui parliamo del mito, dell'eccezione, della perfezione. Ma che ne puoi capire tu? Ari taci e ari odi. Dolci montagne, voi non ditemi bugie. Mai rifiutate me, mai scomparite. Lo stesso occhio costante volgete a me quando fallisco o fingo. O invano i regali nomi scelgo, quel lento, lontano sguardo viola. Mie forti madonne, amate teneramente la monaca ribelle sotto il colle, il cui uffizio è per voi il suo ultimo rito al momento che il giorno svanisce lontano dal firmamento, alzare le ciglia su voi. Thank you. dancing. You took the fall for us. You came thoughtfully, loved me faithfully. You taught me honor. You did it for. Poete diviene poesia della natura, la possibilità di entrare in relazione con quanto si ha attorno, la possibilità, imprevista, di avere tutto. Il legame tra donne e il legame fortissimo con la natura lo troviamo anche in una poetessa il cui nome, a voi che ci ascoltate, probabilmente non dirà nulla. Lei è Selvi Brahim Lari, una sconosciuta. È morta a 29 anni in un incidente stradale causato, voluto, dallo sfruttatore che anni prima aveva ridotto in schiavitù sessuale la sorella con cui era vissuta sempre in simbiosi. La separazione forzata delle due sorelle è stata terribile, ma il legame tra le due donne va oltre il distacco fisico, oltre il non saper più nulla l'una dell'altra, oltre la morte. Ce la leggerà Alcheta, la sorella sopravvissuta. Un giorno sola, una vita senza speranze. Nel mio pensiero tanta fatica, nel mio spirito qualcosa muore. Quanto durerà? Non so. Dove sei? Attimo, minuto, ora, felicità. Dimmi, sto arrivando. Non rubarmi altro tempo. Ma vieni, ti aspetto. Vieni. Parlo, ma è inutile. Non c'è felicità. È scritto che devo soffrire, che devo vivere solo con te, tristezza. Hai messo le tue radici e non mi lasci. Lo so, lo so. Poesie. Messaggi che attraversano un'oscurità fitta di avvenimenti. Avvenimenti mai chiariti del tutto. Il titolo della poesia è Solitudine. E Selvi l'ha scritta quando aveva solo 22 anni. Ma sai che mi sono ricordata una poetessa che mi piace tanto? Chi è? Ma come chi è? Ma se non mi hai detto niente? È nata nel 1892 come Marina Svietaeva e anche lei ha tentato il suicidio. Però? Ben 3 volte, ma non gli è mai riuscito, infatti è vissuta fino a 90 anni. Cioè è morta nel 1982? Quindi potevamo incontrarla? Non credo. Anche lei negli ultimi anni della sua vita si è reclusa in casa e non vedeva nessuno. Ma non credo che facesse tutti quei giochini con l'ape, i fiori, le rose e i gelsomini. Aridanghete. Comunque ho capito chi è. Anche perché ne conosci così poche poetesse che il conto è presto fatto. Stai parlando di Djuna Barnes. Sì, Djuna. Meglio conosciuta come scrittrice. Non è vero, non la conosce nessuno. Djuna chi, te dicono? Lei una volta disse ad Emily Coleman: sono la più famosa sconosciuta d'America. È vero, per chi la conosce è famosissima, ma molti non ne hanno mai sentito parlare. È comunque più conosciuta per Nightwood, il suo romanzo del 1936, un cult da vere lesbiche, dove descrive il suo terribile e straordinario rapporto con Thelma Wood, chiamata Robin Vought. Perché noi, vere lesbiche, riusciamo ad essere terribili e straordinarie allo stesso tempo. E trascinarmi, per quali gradini? Quante rose dovranno cadere ancora? Quanti fiori dovranno sbocciare ancora? Quanti boccioli dovranno ancora marcire? Quante spine dovrò ancora sopportare dentro i pugni serrati della disperazione per essere di nuovo quella che tu amavi, che tanto amavi e tanto era importante, che tanto, tanto amavi, che era tanto importante. Bella la rosa di Djuna. Che vuoi dire? Niente, così. Un roseto senza api, senza profumi, senza nettari. Un roseto in inverno. Sì, ma non è stato sempre così. Infatti si è dedicata anche ad altre stagioni. Canzone d'autunno, per esempio. Scende il vento davanti alla notte che striscia. E tu, amor mio, sei nascosta tra i lunghi verdi steli. E il crepuscolo si insinua tra ogni foglia. Mentre, attraverso l'ombra, rapida di spavento balza la lepre in sussulto e scompare. Le siepi mormorano coi rami gravi, dove sonnecchiano caldi uccelli, ala contro ala, pulsando debolmente come una corda muta, dove noi, sotto, ci stanchiamo dei nostri voti e nascosta si assopisce la soffice talpa sottoterra. Dalle api, il ronzio, i gelsomini di Emily alla talpa sottoterra. Come dice June in un'altra poesia, Fate, what darkness. Cielo, che oscurità. Come into these arms again. La poesia è per me come una finestra e ogni volta che io le vado incontro si apre da sé. Io mi siedo là, guardo, canto, grido, piango. Mi confondo con l'immagine degli alberi e sono consapevole che qualcuno mi ascolta. Qualcuno che esisterà tra 200 anni o che esisteva già 300 anni fa. Non vi è differenza. È un modo di comunicare con l'esistenza, con la totalità dell'essere. è un privilegio di cui il poeta, componendo versi, può beneficiare. Anch'io esisto o esistevo. Altrimenti come si potrebbe affermarlo? Nella poesia io non cerco nulla. È così che posso quasi per caso trovarvi quanto vi è di nuovo in me. Questa citazione è tratta dagli appunti di un'altra grande poetessa, una poetessa persiana, Farrukh Farrokhzad. Nata il 5 gennaio del 1935 e morta il 13 febbraio del 1967. Sfidando le autorità religiose e i letterati conservatori, Farrokhzad espresse con fermezza sensazioni e sentimenti della situazione femminile nella società iraniana degli anni 50-60, contribuendo in modo decisivo al rinnovamento della letteratura persiana del Novecento. Del 1963 è il suo unico documentario, The House in Black, che mostra la situazione dei lebbrosi iraniani e vinse premi in tutto il mondo. Morì nel 1967 in un incidente stradale, di ritorno da una visita alla madre. Nella mia piccola notte il vento e le foglie si ritrovano. Nella mia piccola notte la paura è distruzione. Ascolta, senti il frusciare dell'oscurità? Io guardo meravigliata questa felicità. Del mio pessimismo son dipendente. Ascolta, senti il frusciare dell'oscurità? Ora, nella notte, qualcosa sta passando. La luna rossa è in allarme. È su questo tetto che in ogni attimo teme il crollo, le nuvole, come un popolo in lutto, attendono il momento della pioggia. Il momento, e subito dopo nulla più. Dietro a questa finestra la notte trema e la terra arresta il suo girare. Oltre la finestra un estraneo si preoccupa di me e di te. Oh corpo rigoglioso, le tue mani, come doloroso ricordo, poggiale tra le mie mani innamorate, e le tue labbra, con una sensazione calda di vita, lasciale accarezzare le mie labbra innamorate. Il vento ci porterà con sé. Il vento ci porterà con sé. Yeah. studio con voi stasera Nancy Genziana e Alcheta, che ringraziamo per la collaborazione. Grazie anche a chi ci ha ascoltate. Chi vuole scriverci può farlo a ilterzoorgasmo@gmail.com. Ripeto, ilterzoorgasmo@gmail.com. Ricordo l'appuntamento per chi volesse trascorrere una serata piacevole e amichevole ogni venerdì al Quespilè, presso il CFS in via San Francesco di Sales 1B. Venerdì 25 febbraio il Quespilè ospiterà la nostra compagna e cantautrice Eli Natali e vi invitiamo pertanto a godere della sua musica e della sua voce. Ve lo ricordiamo ancora, il 25 febbraio Eli Natali al Quespilè presso il CFS in via San Francesco di Sales 1B, ingresso gratuito. Ora vi lasciamo con un'ultima poesia di Emily Dickinson e a seguire la nostra sigla di chiusura. Ormai siamo affezionate a Menulis di Alina Orlova. Vi diamo appuntamento con il terzo orgasmo al 15 marzo e vi auguriamo una buona serata. Auto da fe e giudizio, per l'ape non so niente, il distacco dalla rosa e tutta la sua pena. Ir menulėje nevyksta karas, o menulėje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O menulėje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats sau nojus, ten visai nereikia skėčių. O menulį yra drakonų, jūs paglostyti galim. Bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip toli. Taip toli, taip toli.